senza pelo ed alzi la voce, molle fuori a casa feroce, duro e secco e onnipresente, sei una croce. Quanto ti ho amato, molto di più di un testo sacro. Quanto ti ho dato, quanto ho sudato, quanto ho sbagliato. Nella mia vita faccia di santo, ti sei infilato come in un guanto, giorno per giorno, lentamente, mano fedente. Sputa chi pensa, e allora tu sputati addosso e spera, se l'hai mai fatto, nell'esistenza di un compromesso sopportato per coscienza.